779. Frutta in guazzo. A chi piace le frutta in guazzo può riuscire gradito il seguente modo di confezionarle. Cominciate dalle prime che appariscono in primavera, cioè dalle fragole, dai ribes, dai lamponi, e poi ponetene in un vaso 50 o 100 grammi per sorta. Copritele con la metà del loro peso di zucchero e tanta acqua vite o cognac che le sommerga. Poi proseguite con le ciliegie, le susine, le albicocche, le pesche, tutte private del nocciolo, e all'infuori delle ciliegie tagliatele a fettine, aggiungendo sempre in proporzione zucchero ed acqua vite. Potete mettervi anche uva spina, uva salamanna e qualche pera gentile, ma poi assaggiate il liquido per aggiungere zucchero o d'acquavite a tenore del vostro gusto. Formato il vaso, lasciatelo in riposo per qualche mese prima di servirvene.